TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La tragedia di Muggia, questa sera la veglia per il piccolo Giovanni, gli accertamenti del Ministero sulla decisione del Tribunale di consentire alla madre di vedere il figlio da sola. Autostrade Alto Adriatico verso i 54 milioni di transiti in un anno, cifra record. La terza corsia ha fatto diventare il tratto di competenza della A4, il corridoio privilegiato sulla direttrice est-ovest. La ministra per le disabilità Locatelli a Pordenone in fiera, le iniziative sull'inclusione del Motor Therapy Day. Colletta alimentare, 750 punti vendita coinvolti in regione, i prodotti raccolti saranno distribuiti a 39.000 famiglie. I 50 anni dal terremoto e gli alpini a Trieste, le penne nere protagoniste in attesa dell'anniversario. Passione e tatuaggio a Trieste al Convention Center del Porto Vecchio, la due giorni con gli specialisti da tutto il mondo. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Questa sera a Muggia la veglia per ricordare il piccolo Giovanni ucciso dalla madre mercoledì sera. Da poco tempo la donna, separata dal marito e per diverso tempo assistita dal centro di salute mentale e dai servizi sociali, aveva avuto dal tribunale l'autorizzazione a vedere il figlio da sola, senza la presenza di operatori. Sulla vicenda sta compiendo accertamenti il Ministero della Giustizia. Il servizio. Sono sempre di più i peluche, i fiori, i biglietti dei compagni di classe di Giovanni Trame, il bimbo di 9 anni ucciso in casa nella piazza centrale di Muggia dalla madre Olena Stasiuk, ucraina ma residente da tempo in Italia, arrestata per omicidio volontario aggravato. Muggia oggi è silenziosa, solo in pochi si fermano ai bar di piazza Marconi, in tanti invece entrano nel Duomo per una preghiera e per parlare con il parroco Don De Stradi, che per stasera ha organizzato una veglia di ricordo in cui distribuirà anche dei lumini con l'invito di tenerli accesi sulle finestre. I bambini del catechismo, compagni di Giovanni, ci dice De Stradi, hanno avuto bisogno di un sostegno psicologico per elaborare il lutto, e in lutto è tutta la città, i negozi, la scuola di calcio di Giovanni, che sospenderà per una settimana le partite dei pulcini, mentre le altre categorie osserveranno sul campo un minuto di silenzio. A Muggia c'è dolore dunque, ma anche sgomento. Ci si chiede il perché di questo gesto, come sia stato possibile. E proprio questa questione del perché e del come è arrivata anche sul tavolo del Ministero della Giustizia, che ha chiesto di sapere dettagli sulla decisione di accordare alla 55enne Olena Stasiuk una visita settimanale non sorvegliata al figlioletto, in aggiunta a quelle svolte alla presenza degli educatori. Il Ministero avrebbe inviato una richiesta conoscitiva al Tribunale di Trieste su questo provvedimento, emesso a maggio a seguito della relazione tecnica della psicologa, che evidenziava un miglioramento delle condizioni psichiche di Olena Stasiuk, che era seguita dal centro di salute mentale dal 2017. Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La rete di autostrade Alto Adriatico si prepara per la prima volta nella sua storia a superare la soglia dei 54 milioni di transiti annuali, dunque 2 milioni in più rispetto al 2024 e 4 milioni in più rispetto al 2023. Se poi si considera un periodo più ampio, dal 2002 a oggi, si sono registrati quasi 20 milioni di transiti in più. La crescita esponenziale del traffico negli ultimi anni, ha spiegato il presidente della concessionaria Mario Monaco, si deve alla costruzione della terza corsia, che ha raggiunto uno sviluppo di circa 60 chilometri, dei quali 40 dal 2021 a oggi. Questo ha reso più agevole il percorso, facendo diventare la rete di autostrade Alto Adriatico il principale corridoio in Italia dei traffici sulla direttrice est-ovest. Nel 2025 si registra finora un tasso di incidentalità con danni alle persone inferiore rispetto alla media delle altre concessionarie autostradali, secondo i dati AESCAT, anche per la prima volta nel tratto tra San Donà e Portogruaro. Rispetto allo scorso anno, gli incidenti totali sono passati da 461 a 396. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli questa mattina a Pordenone ha partecipato alle iniziative di Motor Therapy Day. È arrivata anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli in Fiera Pordenone per Motor Therapy Day Acceleriamo l'inclusione, dove ha fatto il punto sulla riforma della disabilità. Sta proseguendo, ha spiegato, con la parte formativa e con la sperimentazione che dal 2026 riguarderà anche Pordenone e Udine, la ministra. Stiamo cercando di sburocratizzare, prima di tutto di semplificare la vita a tutti, e rivedendo il percorso per il riconoscimento dell'invalidità civile, riducendo da 7 a 1 le commissioni, da 7 a 1 i certificati, da 2 a 1 le domande introduttive e soprattutto eliminando la visita di rivedibilità, che è una fatica enorme per le famiglie e per le persone con disabilità. Cuore della riforma, il progetto di vita che cambia il paradigma mettendo al centro la persona. Il presidente regionale della Consulta Disabilità, Mario Brancati. Si tiene conto degli interessi, dei bisogni, delle aspettative di ogni ragazzo. È una svolta culturale enorme. Non sarà facile. Intervenuto anche sul fondo per l'autonomia possibile, FAP ha detto: strumento prezioso in una regione virtuosa che necessita però di essere sburocratizzato. In fiera l'emozione per tutti e tutte delle moto da cross e di speciali go-kart biposto. Nicolò Tremolada, fondatore dell'associazione Wheelchair Karting. Io nel 2011, due giorni prima dei famosi 18 anni, quindi dovevo fare la festa, ho avuto un incidente in moto che mi ha costretto a una vita sulla sedia a rotelle. Dal 2020 abbiamo aperto Wheelchair Karting per regalare le sensazioni di libertà che ho io sul kart ad altri ragazzi purtroppo sfortunati come me. Quindi mi raccomando ragazzi, crederci sempre, arrendersi mai. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Due le restituzioni che i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno portato a termine ieri in occasione della giornata UNESCO dedicata alla lotta al traffico internazionale di beni culturali, mentre intervenivano come relatori alla conferenza del Club per l'UNESCO di Gorizia che si è tenuta a Palazzo Coronini-Kronberg. In particolare sono state consegnate all'arcidiocesi di Gorizia 6 epistole manoscritte del XIX secolo rubate con modalità ignote, che sono state individuate a Trieste in disponibilità di un collezionista attivo in una piattaforma di commercio elettronico. Altra restituzione è quella di un volume di fine 600 intitolato Historia di Trieste, già sottratto alla Biblioteca Nazionale di Zagabria tra il 1982 e il 1985, a sua volta emerso in un sito di commercio elettronico. Il libro a stampa è stato restituito all'ambasciatore di Croazia in Italia. Principio d'incendio questa notte verso le 2 in uno stabile del centro di Trieste, in via Madonnina, al civico 12, ha interessato un appartamento al quarto e ultimo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala e autobotte, domando in breve le fiamme. Non ci sono state conseguenze per gli occupanti dello stabile, evacuati per tempo. I pompieri hanno portato a termine anche le operazioni di messa in sicurezza e ricorrendo a motoventilatori di bonifica ed evacuazione dei fumi. Verso il cinquantenario del terremoto del Friuli, questa mattina a Trieste una serie di iniziative, protagonisti gli alpini. Integrare il sapere con il saper fare, competenze trasversali da mettere in rete, il gioco di squadra che cresce la resilienza del territorio. Questi punti chiave del simposio, il terremoto nel ricordo, la sfida. La sfida attuale per il mondo scientifico, capire la criticità futura, creare dei modelli digitali. Altre sfide sono come gestire la sinergia e le emergenze con la protezione civile. E l'interazione tra le comunità scientifiche e la protezione civile è proprio figlia del terremoto del Friuli. Coinvolti i rappresentanti delle realtà che hanno operato sul territorio subito dopo quella sera di quel 6 maggio e quelle nate da quell'evento. Un incontro tra il mondo militare e quello civile voluto dal centro addestramento alpino tra gli eventi correlati alla cerimonia della consegna del cappello alpino. Tra i partecipanti Amedeo Aristei, direttore del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, che ha fornito uno spaccato storico della nascita della protezione civile regionale e sulle sfide future. E come si collabora con la parte militare, in questo caso con i reparti degli alpini? Con gli alpini abbiamo una collaborazione sia nella logistica sia con l'Associazione Nazionale Alpini in Congedo per quanto riguarda la parte, diciamo, del vettovagliamento, quindi noi con gli alpini collaboriamo tutti i giorni e in caso di necessità siamo pronti a partire insieme e a mettere in campo congiuntamente le forze che ognuno può contare, può rappresentare. Una parte del territorio nazionale che è fortemente monitorata è la situazione dei campi flegrei, si parla anche di possibili evacuazioni. Qual è il piano? Coinvolge anche la nostra regione? Sì, coinvolge anche la nostra regione, come tutte le altre regioni. Ci sono delle aliquote di popolazione all'interno del cratere dell'area vesuviana che sono state ripartite, e noi abbiamo anche avviato una nostra organizzazione per l'accoglienza della quota che ci spetta. Si può parlare di qualche zona in particolare? Ci sono già individuati magari obiettivi, ex caserme o zone particolari? L'accoglienza chiaramente avverrà in due fasi. Una prima fase in cui ci sarà un'unica struttura dove verranno raccolti, e successivamente poi, se l'accoglienza dovesse essere prolungata, ci sarà un tipo di rapporto con il territorio che dovrà accogliere la popolazione per più lungo tempo. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 750 i punti vendita che oggi in regione aderiscono al Banco Alimentare, circa 10.000 volontari impegnati, di cui quasi un migliaio rappresentato da studenti, a cui sarà possibile donare generi di prima necessità che poi saranno redistribuiti a 300 enti regionali che assistono circa 39.000 persone in difficoltà. La lista dei negozi aderenti è pubblicata sul sito bancoalimentare.it. È dedicata alle associazioni del terzo settore, la serata intitolata Generazioni in Movimento, il tempo che doniamo, la comunità che costruiamo, intesa alla creazione di una rete di collaborazione tra varie realtà di settore. L'evento, promosso dal Movimento Volontariato Movi, si terrà a Tarcento, al Teatro Margherita, alle 20, con Dino Del Savio, presidente regionale Movi. Abbiamo parlato delle prossime sfide del volontariato. Le sfide nel territorio della nostra regione in particolare sono quattro. La prima è una domanda fortissima di comunità, di coesione, di legami tra le persone. La seconda è la sfida del diritto alla salute, in particolare proprio del diritto alla salute che viene oggi visto un po' minacciato. La terza è la sfida ambientale, climatica, della giustizia ambientale. La quarta è la sfida dell'educazione e del protagonismo dei giovani. Di fronte a queste sfide non si può agire da soli. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrano i volontari nel loro impegno? Ci sono due tipi di difficoltà. Una è la difficoltà legata anche a tutti gli aspetti burocratico-amministrativi che sono venuti avanti, in particolare con la riforma del terzo settore. Nulla contrario alla trasparenza, alla chiarezza, però ricordiamoci che siamo di fronte a organizzazioni di volontariato dove i volontari mirano all'obiettivo reale, che è quello poi della cura, insomma, del territorio, delle persone, delle comunità, eccetera, e sono poco avvezzi. Dalla seconda è la sfida intergenerazionale, nel senso che i giovani hanno una forte caratteristica di impegno civile, civico, ma non si ritrovano nelle aggregazioni tipiche del volontariato, hanno altre modalità, altre forme di esprimere il loro impegno. 12:42, diamo uno sguardo al tempo. Cielo da poco nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11. A Trieste 15 gradi, a Pordenone 15 gradi, a Gorizia e Udine 16, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 10 gradi e 5 decimi, a Sappada 7, sul Piancavallo 10, a Forni di Sopra 8 e in quota ancora sul Lussari 5 gradi, sullo Zoncolan 4,5. Sulla costa a Grado 16,5, a Lignano 14,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio e in serata: cielo in prevalenza nuvoloso con qualche schiarita locale, in serata possibili foschie, locali nebbie, nella notte piogge moderate. Per domani cielo coperto con foschie e qualche pioggia sparsa, specie sulla costa e a est. Dal pomeriggio piogge diffuse in tutta la regione, specie in serata, quando si faranno più consistenti. Al via a San Vito al Tagliamento il piccolo festival dell'animazione, fino al 23 novembre proporrà 110 animazioni che saranno proiettate anche a Pordenone, Udine, Staranzano e Trieste, alla presenza di una quarantina di registi, tra i quali il premiatissimo argentino Juan Pablo Zaramella. La manifestazione internazionale, alla 18ª edizione, è organizzata da Viva Comics. Primo appuntamento la mostra Identità Animate, che si è aperta questa mattina nella chiesa di San Lorenzo. Venerdì prossimo vi si ritroveranno gli artisti che espongono 120 tra tavole, stampe e illustrazioni. Poi si potrà visitare fino all'11 gennaio. La sezione Mondo Gaza, una delle quattro sezioni in cui è divisa la mostra, ha un risvolto benefico. Le stampe saranno vendute e il ricavato andrà a Medici Senza Frontiere. Oltre 150 tatuatori e specialisti del piercing da tutto il mondo animano da oggi la 15ª edizione del Trieste Tattoo Expo al Convention Center e il pubblico è già foltissimo. Siamo alla Trieste Tattoo Expo, 15ª edizione di questa fiera internazionale del tatuaggio e piercing. Ha aperto un'ora e mezza fa e già si stanno riempiendo tutti e 150 gli stand con artisti da tutto il mondo e da tutta l'Italia. Questa fiera infatti negli anni si è affermata come un punto di riferimento di alto livello in questo mondo, che è un insieme di arte, artigianato e commercio. Ci sono anche tanti bambini accompagnati dai propri genitori, adolescenti, ma soprattutto tante donne. La maggior parte degli artisti e dei tatuatori un tempo erano uomini, adesso siamo a un 50-50. Abbiamo parlato con l'organizzatore di questa fiera, che è Carlo Bonci, e gli abbiamo chiesto come si diventa tatuatori oggi, perché sappiamo che è un po' una giungla. Lui ha spiegato che esiste un regolamento in vigore dal 2012 che non prevede un vero corso di formazione. La regione dovrebbe far partire a breve un corso di 90 ore, tutto dedicato alla spiegazione igienico-sanitaria e alle conoscenze che bisogna avere in questo ambito per aprire un proprio negozio di tatuaggi, ma manca completamente l'aspetto artistico e etico in questo corso, e lui auspica che presto possa partire un corso di almeno un anno o due per formare veramente questi artisti e mettere al riparo i clienti da persone non professionali. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:46 in punto, siamo alla pagina dello sport. Sci alpino nella Coppa del Mondo femminile, primo slalom stagionale con la prova di Levi in Finlandia, prova scialba da parte della tarvisiana Lara Della Mea nella prima manche, chiusa con 4 secondi, con quasi 4 secondi di ritardo dalla statunitense Michaela Schifrin, che ha realizzato il miglior tempo. Chiave negativa per Della Mea, che partiva con il pettorale 21, il tratto più ripido nel quale è stata tra le più lente, non è entrata fra le prime 30 e dunque è rimasta esclusa dalla seconda manche che comincerà tra poco. Basket, serata di campionato nella massima serie per Trieste e Udine. La formazione biancorossa giocherà a Cremona nello scontro diretto contro la Vanoli. Le due squadre sono appaiate a quota 8. Trieste arriva dal successo interno contro Tortona, una corroborante rimonta, mentre i lombardi hanno perso a Trapani. In forse Toscano Anderson e Brooks. Coach Gonzalez teme l'approccio al match e dice: la cosa più importante sarà cominciare meglio, soprattutto in difesa, e non subire così tanti punti come ci sta succedendo da un po', e poi dovremo continuare a lavorare da squadra. Inizio partita alle 20:30. L'Apu invece alle 20 ospita Tortona, che in classifica viaggia a ridosso delle prime. Al Carnere i bianconeri non hanno ancora vinto, l'unico successo finora è stato quello di Sassari, avversario ostico, ma i friulani vogliono rompere il ghiaccio anche in casa e staccare le altre formazioni in coda a quota 2. I tecnici bianconeri chiedono alla squadra 40 minuti di concentrazione, anche sfruttando il supporto del pubblico che finora non è mancato. Al Carnera infatti si va verso un nuovo sold out. Calcio in Serie C, questa sera in programma la partita Triestina-Trento allo Stadio Rocco, con gli alabardati che vogliono interrompere la deprimente striscia negativa. 3 sconfitte nelle ultime 5 gare per Attilio Tessari in panchina, ancora nessun successo. Le numerose assenze complicano la missione della squadra di casa, che in classifica è a 19 punti dalla penultima, la Pro Patria. Non perdete domani l'appuntamento con le nostre rubriche, a cominciare da quella diffusione nazionale Est-Ovest, che andrà in onda alla radio su queste frequenze e in televisione su Rai 3. Sarajevo Safari, un esposto alla Procura di Milano, ha avviato indagini su ignoti che avrebbero pagato per uccidere civili in Bosnia. Lo stabilimento Stellantis, ex Fiat, a Kragujevac in Serbia, dove sono impiegati anche molti lavoratori italiani. Le incertezze della politica europea sul futuro dell'industria automobilistica specchiate nel dibattito al Parlamento di Strasburgo. Proteste e manifestazioni in Grecia contro la decisione del governo conservatore di tagliare più della metà degli uffici postali. Sensazionale scoperta di due archeologi che sul Carso, sia in Italia sia in Slovenia, hanno trovato delle trappole per la caccia preistoriche uniche in Europa. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E ora il menù di Vita nei Campi, in onda domattina, subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale. Nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani ci porta a conoscere la manifestazione Mielerie Aperte, cui partecipano anche alcuni apicoltori friulani. A seguire gli odori della cantina con i tini pieni di mosto schiacciato dai piedi dei bambini di casa. Come scegliere una serra domestica dall'orientamento all'arieggiamento. Dal mosto alla birra attraverso la magia della fermentazione che ne definisce carattere e bouquet. E ancora la dolcezza della zucca conservata in casa con la fermentazione lattica, gustosa e salutare. Giacinti, narcisi, amarillis, bulbi adatti a colorate fioriture invernali in vaso. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Edizione redatta e condotta da Maria Spezia, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Federico Comar, ha collaborato in redazione Emma Soliman. 12:50, 30 secondi, prossima edizione oggi che è sabato alle 14:30. Grazie per il vostro ascolto, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.